America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Torniamo sulla vicenda Osama Bin Laden. Abbiamo avuto qualche altra rivelazione ieri che crea un alone di mistero attorno ad alcune dinamiche. Per esempio, abbiamo saputo che, contrariamente a quel che si credeva, quando il comando è entrato nella stanza al terzo piano dell'immobile dove c'era Osama Bin Laden, si sono accorti che non era armato e prima invece c'era stato detto che era armato. Quel che è successo, c'è stato spiegato ieri, è che la moglie di Bin Laden, erano soltanto loro due nella stanza, si è gettata aggredendolo contro uno dei soldati, il soldato ha sparato, la ferita a una gamba. A quel punto hanno sparato e ucciso Bin Laden, il quale Bin Laden appariva debole con un bastone e dunque non presentava nessuna minaccia. La conclusione più ovvia che si deduce, anche se Jay Carney non lo ha confermato, è che la missione di domenica notte era una missione per uccidere e non per fare un prigioniero. E le spiegazioni attorno a questa dinamica sono molto semplici. Se avessero catturato Osama Bin Laden vivo, avrebbero poi dovuto fare un processo. Questo processo avrebbe costituito una piattaforma importante per lui dal punto di vista di crescita del suo mito, del suo ruolo di idolo, con la base forte che ancora lo segue, e soprattutto gli avrebbe dato una piattaforma per attaccare gli Stati Uniti e per dare di nuovo dei messaggi di incitamento. Insomma, avrebbe rappresentato una serie di complicazioni che era meglio evitare. Dunque, meglio che sia andata così dal punto di vista americano, ucciso in un incidente a fuoco e sparito nel profondo del mare. I think we always assume from the beginning that the likelihood was that he was going to be killed, but if perchance he were to be captured, I think the approach was to take him quickly to Bagram, transfer him to a ship offshore, and then have the principals at the White House decide what next steps would be taken. Anche Leon Panetta, uno degli uomini chiave emerso da questa straordinaria missione americana, il capo della CIA, pur non sbilanciandosi, pur tenendo aperte le varie opzioni, come sentite da questa sua dichiarazione che ha fatto in un'intervista di ieri sera alla CBS, dice: dall'inizio abbiamo ritenuto probabile che Osama Bin Laden sarebbe stato ucciso. Nell'eventualità che l'avessimo catturato, avremmo proceduto a trasferirlo rapidamente a Bagram in Afghanistan e da lì su una nave in mare aperto, e quindi avremmo atteso le direttive di Washington. Ecco, per un'operazione che è stata pianificata nel dettaglio, al punto tale che c'era già pianificato il funerale per questo signore, non credo che questa operazione avrebbe avuto un punto interrogativo con Osama Bin Laden prigioniero su una nave in attesa di direttive da Washington. Ma come ci ha detto Brenner, responsabile per la sicurezza interna nel contesto del Consiglio per la Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca, tagliata la testa del serpente, Al-Qaeda sarà morta o comunque sarà molto indebolita. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Guido Limpio, corrispondente del Corriere della Sera da Washington, grande esperto di questioni terroristiche. Buongiorno Guido. Buongiorno a voi. Tagliata la testa del serpente, morirà Al-Qaeda? Ma io non credo. C'è un rischio che la situazione non cambi di molto, perché Al-Qaeda è cambiata tantissimo rispetto al passato. Sono un insieme di realtà regionali, sono dei gruppi che sono attivi ma sparpagliati, e riescono a mettere assieme un'agenda locale, quindi che so, la lotta nello Yemen contro il regime nello Yemen e la lotta contro l'Occidente, e alternano oggi l'agenda nazionale, domani l'agenda internazionale. Poi c'è un'altra realtà che è difficilmente controllabile, quella di piccoli gruppi che assorbono volontari, militanti, spesso arrivano anche dall'Occidente, li preparano in maniera a volte anche sommaria e li rimandano indietro per attacchi. Recentemente, proprio in questi giorni, sono stati arrestati 3 cittadini marocchini, ma che vivevano da molto tempo in Germania e si preparavano a fare un attentato. Ecco, questo è il tipo di pericolo che c'è: non una grande organizzazione, ma una serie di gruppi, piccoli gruppi, a volte anche 2 persone che passano all'azione. Però la struttura a questo punto non si sa che fine farà. Qualcuno appunto dice, e sono assolutamente d'accordo con te, che potrebbe esserci, per usare un termine economico, uno scorporo di questa holding Bin Laden, e quindi varie realtà. Ci sono alcuni nomi che sono un po' quelli dei leader: abbiamo al-Zawahiri, abbiamo Saif al-Adel, abbiamo al-Libi, abbiamo al-Awlaki, ciascuno di questi ha una sua, ha un suo profilo. Secondo te ognuno creerà la sua corporation oppure si identificherà un capo? Allora, intanto io credo che potremmo definirli dei piccoli Osama, nel senso che nessuno di questi ha la statura, il carisma per poter rimpiazzare Bin Laden. Zawahiri forse è quello che ci prova un pochettino, che anche come presenza mediatica, però non è che sia ben accetto da tutti. Quindi la possibilità è che assisteremo, ogni tanto esce al-Zawahiri, poi esce fuori magari al-Libi, quindi sarà difficile individuare un vero leader. Tra l'altro ci sono voci che la specie di commissione, di comitato che gestiva quel poco che è rimasto dell'Al-Qaeda centrale, ossia della vecchia Al-Qaeda, poche centinaia di elementi, questo consiglio potrebbe anche decidere di assumere una specie di leadership collegiale, anche se in questi movimenti c'è sempre bisogno dell'emiro, quindi potrebbero tentare di designare, che so, un ideologo, un capo spirituale tra virgolette e un capo militare. Relazione col Pakistan degli Stati Uniti, caro Guido, perché le relazioni erano ai livelli minimi, lo sono già state per molti mesi. A questo punto ci si domanda, è possibile un rimbalzo? I pessimisti dicono questo è il punto più basso, dovremmo andare alla rottura, qualcuno appunto ha già invocato un'inchiesta, un'indagine, anche in Europa alcune voci sono levate in questo senso, al congresso altri hanno detto ma forse dovremmo tagliare gli aiuti, però si vedeva anche nelle ultime ore una certa correzione, perché si capisce bene che il Pakistan è troppo importante, senza il Pakistan non ce ne si può andare all'Afghanistan e quindi si potrebbe ripartire dal punto più basso sulle macerie di questi mesi disastrosi, ricostruire un nuovo momento. Quindi approfittare di questa svolta, dove magari si può colpevolizzare ancora di più il Pakistan per essere stato magari complice o complice nascosto di Osama Bin Laden, per dire beh, allora o si cambia o se no peggiore, a quel punto magari si va avanti. I pakistani attuali, sia il capo di servizio segreto che il capo dell'esercito, potrebbero anche cogliere la palla al balzo e cercare di fare l'ennesima purga, quello che aveva fatto anche l'ex presidente Musharraf, ossia sfruttare questa situazione dicendo siamo sul banco degli accusati, cioè, hanno trovato Osama Bin Laden in casa nostra, non ce ne siamo accorti e c'è un imbarazzo evidente, bene, a questo punto dobbiamo fare un altro repulisti e quindi cercare di togliere alcuni di questi elementi e offrire qualcosa. È evidente che adesso il Pakistan ha un prezzo da pagare, che sapesse o non sapesse, che fosse consapevole del blitz o no, poco importa, è chiaro che nell'immaginario collettivo e anche in quello diplomatico il Pakistan è colpevole e si deve discolpare in qualche modo. Io penso che questa potrebbe, ripeto, potrebbe essere una svolta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, ci sono voluti 24 anni, ma Move Like This, il nuovo album della rock band The Cars, grande mito, sta finalmente per arrivare il prossimo 10 maggio. Da questo nuovo album a ascoltiamo dei The Cars, Blue Tip. You believe in anything they tell you how to think. A simpleton's a circle in the raging roller rink. A trading in the alley, bucking up a storm. Forget about reality, cause nothing is the norm. So what can you do, you say? They owe me a few, yeah. Blue, tip me your cue. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.